TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Neutralizzata a Trieste la bomba del porto, fatto brillare in mare l'ordigno del 44. Tagliamento, lo scontro diventa politico, le reazioni dopo la proposta alternativa alla traversa di Vignano. Imprese coraggiose premiate a Udine sono quelle che hanno avviato iniziative per le aree interne e disagiate. I geriatri nella città laboratorio, gli specialisti della quarta età a Trieste, gli studi e le tendenze. Spettacoli, un'anteprima assoluta per l'apertura del Festival di Musica Sacra Pordenone a Trieste, le maghe ispirano Wunderkammer. Sport, basket, Trieste umiliata sul campo della Reyer, in A2 la Gesteco battuta in casa dalla matricola Ruvo, nel volley lo spettacolo della Supercoppa femminile al Palarubini. 8:31, buona giornata, buona domenica da Giampaolo Mauro e Andrea Vardanega. Subito uno sguardo alla situazione del tempo, cielo da sereno a variabile sul Friuli Venezia Giulia, le temperature registrate alle 7, a Trieste 10 gradi e 5 decimi, a Udine a Pordenone 11, a Gorizia 9. Nell'area montana a Tolmezzo 6 e 5 decimi, a Tarvisio 5, a Sappada 2 e 5 decimi, a Forni di Sopra 5, sul Piancavallo 3 e ancora in quota abbiamo sullo Zoncolang e su Lussari 1 grado. Sulla costa a Grado e a Lignano 12 e 5 decimi. Per le previsioni di oggi cielo da poco nuvoloso a variabile, venti deboli, temperature massime in leggero calo. Operazione bomba, tutto è filato liscio. A Trieste è stato fatto brillare in mare l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato in porto. Una giornata trascorsa tra i ricordi del 44 e un pensiero ai conflitti di oggi. 3, 2, 1, brillamento! A largo di Barcola l'esplosione dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, fatto brillare dai palombari della Marina Militare a 10 metri di profondità nel Golfo di Trieste alle 12:40 in punto. Il disinnesco era stato fatto dagli artificieri del Terzo Reggimento Genio Guastatori alle 8:40 del mattino. L'ordigno bellico da 500 libbre di fabbricazione statunitense è stato trovato lo scorso mese durante i lavori d'ampliamento dello scalo ferroviario del porto di Trieste, il disinnesco fatto all'interno di una gabbia d'acciaio. Massimiliano Carfagna, colonnello. La bomba costituiva, avendo entrambe le spolette armate in buono stato, era un materiale con un potenziale esplosivo pericoloso. Il silenzio delle strade e il passaggio delle forze dell'ordine a noi ha ricordato la pandemia, ad altri invece ha evocato la guerra alle porte. In questi tempi così inquietanti effettivamente fa un po' impressione. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche oggi appuntamenti in occasione della 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A Pasiano di Pordenone l'ANMIL consegnerà i distintivi di grande invalido e gli attestati di fedeltà alla cerimonia dopo la messa nella chiesa di San Paolo Apostolo, che comincerà alle 10. Ieri cerimonie si sono svolte a Udine e Tolmezzo con un commosso ricordo, in particolare per Andrea Misson, il 21enne deceduto negli scorsi giorni dopo un incidente in un cantiere edile lungo la strada costiera triestina. Le difese contro le piene del Tagliamento fa discutere anche l'ultima proposta alternativa alla traversa di Vignano, che ipotizza l'espansione del fiume su 400 ettari coltivati tra Pinzano e Spilimbergo. Abbiamo raccolto alcune reazioni. 400 ettari di terreni agricoli lungo il Tagliamento che potrebbero diventare area di espansione del fiume in caso di piena, messi a disposizione da una quindicina di agricoltori tra Spilimbergo e Pinzano. Nella proposta annunciata in casa Fratelli d'Italia, ma ormai Ciriani, che agita il centrodestra. Il presidente dell'Associazione Agricoltori Medio Tagliamento, Erminio Barna. Oggi con il nuovo regolamento comunitario Restoration Natura si può discuterne, perché sono messi a disposizione dei fondi per verificare in che modo mettere a disposizione la proprietà e anche la funzione dell'agricoltore per tenere pulito. Per il sindaco di Spilimbergo Sarcinelli, il dato politico emerso è la volontà di ricercare alternative progettuali rispetto a quelle ipotizzate sinora, con un progetto unico per tutta l'asta, dalla sorgente alla foce. Per il sindaco di Pinzano al Tagliamento De Biasio, un cambio di rotta positivo, anche se poco condiviso. Per Alessandro Ciriani, del gruppo Acque Lega Ambiente, bene, anche se in ritardo, la volontà di affrontare in modo diverso il tema della laminazione delle piene. Gli ettari coinvolgibili in attività di laminazione sono circa 5.000. Le possibilità sono enormi, con piccoli interventi che chiaramente non possono tenere 50 o 60 milioni di metri cubi d'acqua. Pinzano al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Imprese coraggiose premiate a Udine sono i riconoscimenti assegnati nell'ambito del premio della Fondazione Pietro Pittini ai progetti imprenditoriali innovativi per le aree interne. Ecco quali sono e di cosa si occupano. L'Italia è piena di impianti sciistici abbandonati, ce ne sono 265, di cui 11 in Friuli, secondo dati Legambiente. Il friulano Matteo De Bellis e Maria Solomita hanno avuto un'idea, dare una nuova vita a queste strutture. Sentiamo De Bellis. Miriamo a quelli che sono tutti gli effetti dei relitti dimenticati lungo i pendii alpini per cercare di creare qualcosa di fruibile, di utile alla comunità. Ad ora ci siamo fermati a delle sedute, a delle panchine e a un'altalena. L'idea è quella adesso di lavorare a delle pensiline per fermata del bus. Realp ha ottenuto una menzione speciale nella finale di Imprese Spericolate, un premio della Fondazione Pietro Pittini dedicato ai progetti imprenditoriali innovativi nelle aree interne. La presidente della Fondazione, Marina Pittini. I semi di una iniziativa imprenditoriale che noi vogliamo spingere e sono ragazzi che vanno, diciamo, accompagnati e noi ci dedichiamo a questo, insomma. I 15.000 euro in palio per la vittoria sono andati a Dolomiti Marketing Hub, piattaforma collaborativa del Bellunese fondata da Federica Piazza. Altra menzione speciale per la friulana Tipsy Bear, che incentiva il consumo responsabile di alcol nei locali. L'obiettivo iniziale è fornire ai giovani dell'Alto Friuli un modo semplice per noleggiare un mezzo con autista, evitando così di guidare dopo aver bevuto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultima giornata a Cervignano per il Festival del Coraggio. Alla Casa della Musica alle 18.30 si parlerà dei medici volontari in Africa, mentre al Teatro Pasolini alle 16.30 lo psicoterapeuta Alberto Pellai terrà un incontro sull'importanza della socializzazione per i giovani. Chiusura alle 21 con l'inviata Rai Lucia Goracci sul tema L'illusione della verità, dialogherà con il nostro Walter Scherck. Geriatria Congresso a Trieste, da tempo una delle città simbolo delle condizioni determinate dalle nuove aspettative di vita. Cosa significa essere anziani oggi? La popolazione invecchia in Friuli Venezia Giulia più ancora che altrove, ma l'invecchiamento non è sinonimo di malattia, fragilità e disabilità. Occorre tuttavia un sistema sanitario in grado di rispondere ai bisogni complessi degli anziani e della cronicità. Se ne è parlato al congresso regionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria a Trieste. Giuseppe Castiglia, presidente Società di Gerontologia e Geriatria Friuli Venezia Giulia. Le risorse del PNRR, i nuovi piani di ammodernamento, la nascita delle case di comunità, il potenziamento del territorio e l'adeguamento della rete ospedaliera sono sicuramente le grandi sfide che deve affrontare questa regione. La medicina e la ricerca ci forniscono molti nuovi strumenti sia per la prevenzione che per il trattamento delle patologie acute e croniche. I risultati che vediamo oggi sono sicuramente impensabili rispetto a quello che era la realtà di 10 o 20 anni fa. C'è molto da fare, è una medicina di frontiera, ma è una medicina che può dare grandi soddisfazioni in primo luogo nell'umanizzazione delle cure. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È la 18ª edizione di Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia, che riguarda dimore private e chiese. Apertura straordinaria per alcune splendide dimore che si potranno visitare gratuitamente a Butrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano e San Giovanni al Natisone. Attuali oggi un ricordo di Pierluigi Di Piazza, scomparso nel maggio di 3 anni fa. Nel corso della commemorazione al cimitero alle 14.30 saranno letti alcuni testi del sacerdote e attivista che fondò e guidò a lungo il Centro Balducci di Zugliano. Tanta musica tra gli spettacoli di oggi, a cominciare dall'appuntamento benefico al Capitol di Pordenone. Alle 18 il concerto per Emergency e i bambini di Gaza. Partecipano tra gli altri Davide Toffolo, Gianmaria Cusani e Playa Desnuda. Sempre a Pordenone si apre nel segno di San Francesco il Festival di Musica Sacra. Alle 15.30 in Duomo l'ensemble Micrologus proporrà in anteprima in assoluta Giullari di Dio, ispirato al Cantico delle Creature. Chamber Music torna al Sartorio di Trieste con 4 concerti di giovani premiati talenti. Apertura con l'arpista Filippo Craglietto, classe 2007. Il suo viaggio nel Novecento comincerà alle 17. A Trieste, terza giornata per il Festival Wunderkammer, dedicato alla musica antica. Alle 11 al Sartorio sarà di scena il liutista anglo-croato Jadran Dankamp con le composizioni per liuto di Bach. Alle 15.30 al Rossetti Giovanni Bellini proporrà le musiche amate da Lorenzo il Magnifico. Al Miela alle 19 Chiara Granata all'Arpa Barocca e Sara Giulia Gibbon ai trampoli e bastoni daranno vita a Barocco in Bilico, spettacolo senza uguali. Wunderkammer quest'anno si intitola Janas, come le maghe della tradizione sarda alle quali si ispira. Ascoltiamo la direttrice artistica Paola Erdas. Bach, la danza barocca e la musica hip hop, e poi l'arpa barocca e l'artista sui trampoli. Tutto il contrario di tutto in una 20ª edizione del Wunderkammer Festival dal 17 al 21 ottobre a Trieste, che segue le tracce magiche delle Janas. Paola Erdas, direttrice artistica. Le Janas sono le maghe della tradizione sarda, una via di mezzo tra una strega e una fata, dolcissime o cattivissime, e io le ho volute come tema del festival perché rappresentano tutto il contrario di tutto, quindi una musica molto antica, come la musica che fa il Festival Wunderkammer, che diventa modernissima perché viene eseguita adesso, quindi antico e moderno insieme. 8 concerti in giro per la città dalla mattina alla sera con ensemble e solisti provenienti da Francia, Norvegia, Italia e Svizzera. Ad aprire il festival è stato le concert dell'Hostel Dieu nella sua unica data italiana, danza barocca e hip hop insieme. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Altri spettacoli di oggi: debutta questa sera al Palamostre di Udine per Teatro Contatto il nuovo spettacolo di Rita Maffei, Mrs. Dalloway numero 1, con Francesca Osso, ispirato al capolavoro di Virginia Woolf. Sarà in scena fino al 2 novembre. A Prata di Pordenone, al Teatro Pileo, va in scena Becoming Jane, Miss Austin tra ragione e sentimento, narrazione di Stefania Carlesso, con le musiche di Carlo Colombo, alle 16. Il pianista Massimo Gon è a Cividale per il Festival Stories. Al Museo Archeologico, alle 18, sarà il protagonista di un concerto narrazione dedicato alla forma sonata, da Scarlatti a Berio. Al Teatro Lavoroni di Artegna, ultimo appuntamento per il Festival Trallallero, la compagnia Area Rea proporrà Play With Me, alle 16. 8:42, apriamo la pagina dello sport. Basket, Trieste travolta sul campo della Reyer, 102-66, biancorossi irriconoscibili. Coach Gonzalez chiama in causa la stanchezza, ma al tagliercio c'era una squadra vuota che è stata impartita poco più di metà gara. Il crollo da metà del terzo quarto con la difesa in balia degli avversari. In Serie A oggi tocca all'Apu, che ospiterà Brescia, inizio alle 20, mentre in A2 la Gesteco ha perso in casa a sorpresa contro la Matricola Ruvo, 80-91. Per i pugliesi, primi 2 punti del campionato. Per i ducali, serata da dimenticare, si salva solo Rociak con 27 punti e 12 rimbalzi. Lo spettacolo della pallavolo al Palatrieste, 6.800 spettatori per la finale della Supercoppa femminile, che ha visto il successo di Milano su Conegliano, 3-2. E Egonu Lanieri danese, meglio di Hack, Gabi e De Gennaro, partita bellissima e pubblico entusiasta. D'oggi si ripensa al campionato, in 2 la CDA Talmassons, prima punteggio Peno, cerca un nuovo successo sul campo cremonese dell'Ofanino. Calcio in Serie A, negli anticipi vittoria dell'Inter 1-0 sul campo della Roma, e con identico risultato Napoli sconfitto di misura dal Torino. L'Udinese sarà protagonista del posticipo domani sera a Cremona. In Serie C, ieri a Rocco il pareggio della Triestina in rimonta contro la Pergolettese, finita 1-1. Triestina, che ritrova il gol dopo 2 giornate, riabbraccia anche il tifo organizzato tornato sugli spalti dopo la rottura tra società e dirigenti uscenti, Menta e Stella. La gara si mette subito in salita, Silvestri viene espulso direttamente per fallo su Corti dopo il richiamo al VAR, e la Pergolettese ne approfitta passando in vantaggio al 37esimo con Lambrughi su calcio d'angolo. La risposta alla bardata arriva poco dopo, punizione dal limite, e Capitanio Nizza trova l'incrocio per l'1-1. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il raddoppio, salvano prima Matoscevic, poi Moretti. Con l'espulsione di Banè all'80esimo e l'ingresso brillante di Gunduz, la Triestina prova l'assalto finale ma manca di precisione nell'ultimo passaggio. Un punto che muove la classifica, -7, in una gara segnata dall'inferiorità numerica ma con buone prove di Cernigaio e soprattutto di Ionizza. Prossimo impegno per la Triestina in trasferta a Belluno lunedì 27. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Doppietta per Trieste nel massimo campionato di pallanuoto. In quello maschile, alla Bardati a cascata sulla Canottieri Napoli 22-11 con partenza lanciata e strapotere soprattutto nel terzo periodo, chiuso con un parziale di 7-1. Trieste al quarto posto, prossimo turno in trasferta contro Posillipo. Tra le donne, Trieste vince 19-8 in trasferta a Viterbo contro il Civitavecchia. McDowell, mattatrice con 6 reti, la squadra di Zizza è in vetta con Rapallo, il fanalino Locatelli è il prossimo avversario. Anche nel massimo campionato di pallamano, Trieste si riprende la scena costringendo al pari gli scudettati del Conversano. Sul campo pugliese finisce 24-24, metà del bottino biancorosso firmato da un incontenibile Esparon. Podismo, l'argento olimpico e campionessa europea Nadia Battocletti è la superstar della Corsa dei Due Castelli che si disputa questa mattina a Trieste. Partenza della International Road Running Race alle 9.50 da Miramare, a seguire la non competitiva e la Family Run, in tutto 4.000 concorrenti. Strada chiusa al traffico fra Miramare e Piazza Unità fino alla conclusione dell'evento. Ma sentiamo Battocletti sulla sua gara di oggi. Le aspettative sono sicuramente quelle di continuare a divertirsi. Ho appena iniziato la mia preparazione invernale, quindi la mia stagione. Non c'è modo migliore che farlo qui a Trieste. Sono zone che conoscevo già, che ho già visto, e quindi provare a farle in una gara mi renderà sicuramente più che felice. Com'è invece il dopo Tokyo? Il dopo Tokyo è stato impegnativo. Volevo passare più tempo con la mia famiglia e così è stato, quindi sono stata molto felice. Non ho fatto chissà che vacanze. È cambiata un po' la tua vita, il tuo quotidiano negli ultimi tempi? Sì, questo sì, è cambiato. Per fortuna è cambiato in meglio e sono molto felice quando le persone magari mi riconoscono, vengono da me, mi chiedono un consiglio o addirittura mi raccontano cosa hanno provato loro nel guardarmi in gara. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Rassegna stampa. Un'occhiata ai quotidiani che trovate in edicolo. Partiamo dal Messaggero Veneto. Vaccini, corsa a ostacoli, titolo principale in prima pagina, partita la campagna anti-influenzale, ma per il Friuli Venezia Giulia pare fuori portata il target minimo di copertura nazionale fissato al 75%. In evidenza la questione delle casse di espansione del tagliamento. La Lega dice no, tensione nel centrodestra. Sull'edizione di Udine, l'addio ad Alice Morsanutto, ieri a Precenico i funerali della 17enne investita da un'auto. E poi il focus sugli infortuni sul lavoro a Udine, la maglia nera secondo i dati INAIL. L'apertura della cronaca cittadina è invece per il degrado della zona di via Manzoni. Spacciatori tra gli ex ambulatori, siamo esasperati, dicono i residenti. Tema sicurezza in primo piano anche nella cronaca di Pordenone. Qui si dibatte della rete contro la criminalità con i confronti nei quartieri. Foto notizia invece per Gio Bastianic a Maniago, al Verdi. Ieri le prove dello spettacolo Mani davanti a 400 studenti. Anche per il piccolo, apertura sui vaccini, ma sull'edizione di Trieste tre pagine dedicate al Bomba Day. In prima pagina una grande foto del brillamento in mare. Poi il trasporto pubblico, la gara europea per le linee marittime regionali vale 37 milioni. Ampio spazio alle notizie sportive, in particolare alla finale della Supercoppa femminile di volley, Egonu da urlo, Milano vola, e questo è il titolo, e poi naturalmente le cronache delle deludenti prestazioni di Triestina e Pallacanestro Trieste. Sull'edizione di Gorizia, l'ascensione alla Casa Rossa dell'Obelisco della Pace, con due pagine nella cronaca cittadina, mentre a Monfalcone sono state raccolte 1.000 firme contro il campus scolastico. Al Museo della Cantieristica e alla Biblioteca intanto arriva la svolta multimediale con simulatori e totem high-tech. Il Gazzettino punta sulla questione tagliamento, strappo della Lega sul nuovo progetto targato Fratelli d'Italia, mentre i meloniani alzano i toni con l'europarlamentare Ciriani. Sull'edizione del Friuli l'allarme delle proloco da un convegno a Cervignano, mancano i giovani e per i volontari troppi rischi. Nel fascicolo nazionale una lunga intervista con Ezio Zerner, il super perito del caso Una Bomber, che fu accusato di aver manomesso un reperto e fu condannato a 2 anni. Ho pagato solo io, racconta, perché ho fatto il mio lavoro. 8.48, c'è tempo ancora per qualche appuntamento di oggi. Esposizioni, food truck, spettacoli, musica, laboratori e giochi. Le iniziative che animeranno Incontriamoci a Pordenone, giornata dedicata alle famiglie, organizzata nell'area che si estende da Piazza 20 Settembre fino a Via della Motta. Sono 17 le iniziative che per campagna Amicatura FVG di Coldiretti proporranno le eccellenze del territorio a Trieste in Piazza Ponte Rosso dalle 10.30 alle 18.30. Presenze silenziose, questo è il titolo della mostra in versione aggiornata che allestisce pannelli, foto e illustrazioni dedicate ai grandi carnivori presenti sul territorio nazionale. L'inaugurazione a Monfalcone al centro visite Pietrarossa alle 16. Riprende a Duina Orisina il progetto alla scoperta della pietra carsica alle 11.30 al bacino Ivere 3, un omaggio ai poeti del territorio con gli attori e i musicisti della contrada. Uno sguardo alla programmazione regionale. Alla radio alle 9.15 su questa rete andrà in onda la prima puntata di Alla ricerca della lingua perfetta di Goran Vojnovic, regia di Riccardo Cicconetti e Stefania De Maria. Recitano Sara Alzetta, Valentina Bartolo, Nicola Ciaffoni, Adriano Giraldi e Francesco Migliaccio. In televisione alle 9.15 la rubrica Alpe Adria Magazine e a seguire il primo episodio di Go Nova Go, storie sconfinate di Ettore Spezia e Sara Schwagel con Roberto Kovacs. È tutto per questa edizione è stata redatta da Maria Spezia, Andrea Vardanega, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Rimanete in ascolto, c'è Vita nei Campi, ci risentiamo alle 12.15. Grazie ancora e buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.